Non so se avete seguito tutti la sera dell'ultimo dell'anno il messaggio televisivo di auguri del Presidente della Repubblica. Io vi confesso no, mi ero accinto alla bisogna con quello spiccato senso del dovere civico che da sempre mi caratterizza, ma ho resistito pochissimo. Poche volte in vita mia mi era capitato ad ascoltare una tale sequenza di banalità. E il tono con cui il Presidente le pronunciava non era tale da far prevedere degli sviluppi esaltanti, per cui, di fronte al rischio di addormentarmi, di perdermi le lenticchie e il brindisi di mezzanotte, mi sono affrettato a spegnere il televisore, come suppongo avrete fatto anche voi e con voi la maggioranza dei nostri compatrioti, compresi i colleghi giornalisti che di quel messaggio avrebbero dovuto riferire nei quotidiani due giorni dopo e che infatti se la sono cavata con dei resoconti puramente di maniera. Il fatto che siano riusciti nonostante tutto a riempire le 6-7 colonne assegnate all'evento testimonia dell'ingegnosità e della competenza professionale di una categoria troppo spesso calunniata. Il Presidente, d'altra parte, il Presidente più di tanto non poteva fare, e tra tutti i generi letterari quello del messaggio presidenziale di auguri è senza dubbio più precettivo. Uno non può fare gli auguri ai concittadini del Quirinale e dire così alla buona: ragazzi, non facciamoci troppe illusioni, guardiamo in faccia la dura realtà, rendiamoci conto che il sistema fa acqua da tutte le parti. E non può dire in quell'occasione festosa che l'economia va così così, che gli imprenditori si dedicano soprattutto all'accattonaggio, che la classe politica fa più schifo che altro e che il livello culturale è sempre più basso, per cui le nuove generazioni non possono sperare nulla di buono per il futuro e d'altronde, visto come si comportano, si meritano ampiamente quello che gli capiterà. Non suonerebbe bene e poi se lo dicesse gli aprirebbero l'impeachment prima ancora dell'Epifania. Per cui, poveraccio, deve dire che nel complesso il bilancio è positivo, che tutti stanno facendo il loro dovere, che ci sono dei problemi, sì certo, e non potrebbero non esserci, ma lavorando tutti insieme vi supereremo, e i giovani che della nazione sono la speranza più bella devono soprattutto avere fiducia. Poi potrò aggiungere qualcosa d'altro, secondo i tempi e le usanze, ma non più di tanto, la sostanza deve essere quella, e le aggiunte più succose se le possono permettere quelli che sono d'indole un po' birichina, quelli che non si fanno scrupoli a debordare dal ruolo che gli tocca, quelli che litigano tra le righe con il Presidente del Consiglio in carica come faceva Scalfaro, o che lanciano in forma più o meno dissimulata complesse bordate di insulti come faceva Cossiga. Chi birichino proprio non è come il povero Carlo Azeglio, di possibilità ne ha pochissime. Deve mettersi lì, dietro la sua scrivania, con le sue brave bandiere di fianco, ad affliggere se stesso e chi lo sta ad ascoltare con 20 minuti di futilità che, per essere tranquillizzanti, non sono meno tediose. Ma in realtà Ciampi viene sia reso il dovuto merito qualcosa ha fatto. Ha ripristinato la sua scrivania. Il suo predecessore, lo ricorderete, la scrivania l'aveva abolita e si faceva riprendere in poltrona accanto al caminetto e fingeva di essere un buon papà, un buon nonno alla mano, di quelli a cui i nipoti vogliono tanto bene perché dispensano saggezza senza rompere veramente le scatole a nessuno, ed era, ricorderete, da un anno fa, era un'immagine ovviamente falsa, tanto falsa da far venire il volto a stomaco ai telespettatori più incalliti. Capirete, se proprio dobbiamo essere rappresentati al più alto livello istituzionale da vecchi professionisti della politica, usi all'intrigo e a ogni manovra di entrambe le repubbliche, è sempre meglio che si presentino come tali. E di nonni e papà ciascuno ha avuto i suoi, e di solito gli sono bastati. La scrivania, con il suo simpatico effetto di separazione, lui di là e noi di qua, ha l'indubbio vantaggio di rimettere le cose a posto. Nessuna persona normale si azzarderebbe a intrattenersi in poltrona da pari a pari con uno Scalfaro. Mentre quella di trovarsi dall'altra parte di una scrivania rispetto a una figura di potere, non so, preside, capufficio, giudice, primario, è un'esperienza che una volta o l'altra è toccata a tutti. Purtroppo non credo che il Presidente Ciampi abbia scelto la scrivania in nome di questa pur necessaria distinzione di ruoli. Secondo me lui l'ha voluta per un altro scopo, per metterci sopra il monitor del computer. Un monitor, ricorderete, di quelli di ultima generazione, ultrapiatto, presumibilmente ad alta tecnologia. E sfido, era quello in fondo il messaggio. Un computer fa managerialità, fa tecnico, fa esperto. E Ciampi è un gentiluomo, non direbbe mai una parola contro i suoi predecessori, ma non poteva mancare di sottolineare il fatto d'essere diversamente da loro un mago delle tecniche economiche e finanziarie, uno che ha portato il paese in zona euro e che è intenzionato a tenercelo a costo di perire. A costo di farci perire nel tentativo. E su questa immagine, è su questa immagine che ha giocato la sua carriera. Mentre Cossiga, poveretto, organizzava i ruoli dei gladiatori e Scalfaro prendeva schiaffi nel ristorante le signore troppo scollate, e non si vede perché avrebbe dovuto rinunciarci. Ma visto che chi si loda si imbroda, ha preferito affidare il relativo memento a un oggetto, al muto ma non per questo meno eloquente, monitor del computer. Tanto è vero, ricorderete, tanto è vero che affinché nessun cittadino sfuggisse quella suggestiva presenza, ha fatto disporre lo schermo del computer rivolto verso le telecamere, in una posizione che a prima vista si sarebbe detta demenziale, perché non serve niente a nessuno avere sulla propria scrivania un computer il cui monitor è rivolto verso chi gli sta di fronte e su cui lui non può leggere, ma che in ultima analisi era perfettamente funzionale allo scopo che quella presenza si prefiggeva. Perché non è detto che un monitor visto da retro si possa identificare per quello che è. E nella società del telespettacolo le parole volano ma le immagini restano. Ed è sempre meglio affidarsi all'icone che alle espressioni verbali, tanto diciamocelo, i messaggi dei politici, chi mai li sta a sentire.